Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, quindi lo trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. Il blog si chiama Guardie o Ladri, i temi sono sempre gli stessi: legalità e criminalità organizzata. Allora, oggi ci occupiamo di una cosa un po' particolare. Sentiamo sempre parlare e dire delle carenze degli organici nella magistratura, sentiamo dire di processi che vanno a rilento, sentiamo dire di faldoni che rimangono per anni nei cassetti, con delle conseguenze a volte devastanti sia nel campo civile che nel campo penale. Recentemente avete sentito di questi 21 soggetti, probabilmente mafiosi del clan Striscioglio a Bari, che sono stati rimessi in libertà per una serie di vicissitudini burocratiche. Verosimilmente abbiamo deciso di andare a vedere che cosa accade in una regione come la regione Sardegna. Andiamo a vedere come funzionano i tribunali, quali sono i problemi che vivono quotidianamente di carenze o meno di organico, di carenze o meno di strumenti, perché sono abusi quotidiani che hanno dei riflessi enormi proprio su tutta la società italiana. E abbiamo il piacere di avere collegato con noi il procuratore generale della Sardegna, il dottor Ettore Angioni. Buongiorno Angioni. Sì, buongiorno. Allora, la situazione in Sardegna qual è? Più o meno grave rispetto ad altri territori italiani? Penso che sia una situazione analoga a quella del resto del paese, dove la maggior parte degli uffici ha carenze di organico veramente paurose, organico non solo dei magistrati ma anche del personale di cancelleria, situazione che si è aggravata ulteriormente alla luce di una norma dell'ultimo ordinamento giudiziario, l'articolo 13 del decreto legislativo 106 del 2006, che fa espresso divieto di inviare i magistrati di prima nomina nelle procure della Repubblica e nel settore giudicante monocratico. Ecco, ma per fare un esempio, in modo tale che i nostri radioascoltatori possano avere anche dei termini di paragone e di raffronto, qual è la pianta organica prevista nella vostra... Glielo dico subito. Prego. Guardi, parlo dei centri nevralgici. Certo. Nuoro, per esempio, nella procura di Nuoro prevede in organico un procuratore della Repubblica e 6 sostituti. Sono stati trasferiti il procuratore e 5 sostituti, e rimarrà un solo sostituto che dovrebbe reggere tutto l'ufficio. Nuoro, come sapete, abbraccia territori della tutta la Barbagia, territori come Orgosolo, Bitti, Orune, in cui si assiste a un omicidio un giorno sì e l'altro pure. Quindi un solo magistrato dovrebbe far fronte a questa mole impressionante di lavoro. Ecco, questo quando accadrà, dottor Angioni? Cioè, quando, voglio dire, accadrà questa sciagura? Due mesi, perché c'è ancora un sostituto, il secondo è ancora in fase di proroga, ma fra poco è stato trasferito a Rimini e dovrà andarsene via. Quindi fra due mesi, diciamolo chiaro e tondo, in provincia di Nuoro, a fronte di 7 persone in organico, un procuratore capo e 6 sostituti, rimarrà un solo sostituto. Noi avremo un solo sostituto. Beh, mi sembra... Alla Nusei, dove è previsto in organico un procuratore e 2 sostituti, da circa 3 anni c'era un solo sostituto, il quale è stato trasferito, e rimarrà soltanto il dottor Fioravanti. Ecco, ora poi andremo alla Nusei. Le chiedo, Angioni, poi tocchiamo anche il tasto dei cancellieri, ma a fronte di quale carico pendente e che invece sopravviene di anno in anno ci sarà un solo sostituto procuratore a Nuoro? Beh, adesso non sono in grado di darle dei dati esatti dei carichi di lavoro, ma sia a Nuoro che la Nusei è abbastanza notevole, andiamo su diverse migliaia di processi all'anno. Quindi vuol dire che i tempi di soddisfazione della giustizia, quindi i tempi della giustizia, si allungheranno ulteriormente, diventeranno biblici probabilmente. Ecco. La procura è il motore propulsore dell'attività giudiziaria, se manca l'attività della procura si blocca, si ferma tutto, perché chi chiede le misure cautelari è il procuratore della Repubblica, il GIP poi dovrà accogliere o meno. Ecco, ma prima sono le richieste, cosa succede? Arriveremo al punto che in caso di fatti di sangue gravi, omicidio, non sarà il magistrato che potrà recarsi sul posto per fare i primi rilievi assieme alla polizia giudiziaria. Ecco, questo è dal punto di vista veramente drammatico. Quello che sorprende, lo dico ai radioascoltatori, una riflessione a voce alta, che ogni anno sentiamo parlare delle stesse identiche cose, ogni cambio di governo sentiamo parlare delle stesse identiche cose, di legislatura, nuovo Parlamento, sono anni che parliamo di questo, ma la situazione invece che migliorare peggiora. Non entro nelle dispute politiche, di cui non mi interessa assolutamente nulla, ma quello che ci sta rappresentando il dottor Angioni è un fatto oggettivo, non soggettivo. Ma lei parlava della procura di Lanusei e allora io ho il piacere di dare il buongiorno al dottor Domenico Fiordalisi, che è proprio il capo della Procura della Repubblica di Lanusei. Buongiorno Fiordalisi. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei quando rimarrà a lavorare da solo? Fra qualche mese, che sarà operativo il trasferimento dell'unico sostituto procuratore in servizio, la dottoressa Rossella Spa. Ecco, visto che lei lì vive e lavora, qual è il carico pendente invece che c'è presso la Procura della Repubblica di Lanusei? Vi erano migliaia di procedimenti pendenti che sono stati tutti rimessi in movimento, quindi l'arretrato si è fortemente ridotto in questo momento, però vi è una continua domanda di giustizia, soprattutto per gli attentati ai pubblici amministratori, fatto che non comune questa misura né in altre parti, diciamo, dell'Italia, e soprattutto reati in materia di armi ed esplosivi. Su questo, ecco, noto una superiore quantità rispetto al resto del paese. Al resto del paese. Ho capito. Ecco, ora io vorrei fare sia a lei che al dottor Angioni una domanda che ormai non posso nemmeno più definire provocatoria, perché l'hanno ripetuta migliaia di giornalisti in tutte le salse, quindi con sfumature diverse, ma il nocciolo della questione è questo che ora io vi pongo. Ma c'è proprio bisogno di tanti tribunali, di tante procure in Italia? Mi spiego meglio, non sarebbe il caso di giungere anche ad una semplificazione, ad un accorpamento? Le chiedo in maniera, come dire, anche rozza, Fiordalisi, ma non è che ovviamente l'oggetto della mia domanda è lei, ma il funzionamento della giustizia. C'è bisogno di un tribunale a Lanusei in Ogliassa o se ne potrebbe fare a meno? È una valutazione che non spetta certamente a chi lavora negli uffici giudiziari, ma agli organi politici, al luogo preposti e alle relative commissioni. Certamente la terra dello Jastre è una terra con tante problematiche e difficoltà di accesso alla giustizia evidentissima, quindi la soppressione del tribunale aumenterebbe queste difficoltà e non le farebbe diminuire. Però al tempo stesso i tribunali hanno ormai necessità di uno standard di quantità e di qualità di personale e di mezzi organizzativi tali da certamente attestare sulla singola unità di un magistrato di una procura della Repubblica, certo, per esempio. Certo. Ecco, io la stessa domanda la vorrei fare ad Angioni, con ovviamente una visione molto più globale e generale, essendo a capo procuratore generale appunto della Sardegna. Angioni, avete bisogno di così tante procure in Sardegna? È indubbio che i piccoli tribunali abbiano maggior difficoltà nell'andare avanti, perché col sistema delle incompatibilità, faccio il caso, l'esempio, tribunale in cui esistono tre giudici soltanto, e la USEM pare che ne abbia tre o quattro, e colui che ha fatto il GIP non potrà fare il GUP, colui che è stato un GUP non potrà fare il giudice del dibattimento, e così via. Quindi si creano difficoltà notevolissime per andare, e quindi i piccoli tribunali probabilmente in qualche caso andrebbero soppressi, non nel caso di Lanusei, perché in Sardegna bisogna tener conto anche della ubicazione del territorio, ovviamente. Ecco, ma io le faccio Lanusei da Cagliari è un viaggio veramente notevole. Ecco, le faccio una domanda, lei magari non mi dirà no, non posso rispondere, però io gliela faccio lo stesso. Angioni, fosse per lei, quali tribunali andrebbero soppressi in Italia? Senza entrare nel merito ovviamente della bravura dei colleghi, che ci mancherebbe altro, ma faccio qualche nome di qualche tribunale da sopprimere. E gliele posso anche elencare. Piemonte, Sicilia, Calabria, che hanno, il Piemonte ha addirittura 18 tribunali, alcuni dei quali distano l'uno dall'altro circa 10-15 chilometri, il che non ha veramente senso. Tra l'altro in località facilmente raggiungibile, perché la rete viaria del Piemonte non è certo quella della Sardegna. Quindi lì, in un caso del genere, ovviamente parecchi di questi andrebbero soppressi ed accorpati ad altri un po' più. Ecco, quindi fa piacere sentire che un uomo dello Stato, un magistrato come il procuratore generale della Sardegna, non si arrocca, ma dice chiaramente i piccoli tribunali vanno accorpati, e ha fatto il caso di tre regioni, senza entrare nello specifico dei nomi: Piemonte, Sicilia e Calabria. Io la ringrazio, dottor Angioli, per il suo intervento, così come ringrazio anche il dottor Fiordalisi, che è a capo della procura di Lanusei. Siamo nell'Ogliassa, siamo in Sardegna. Dico grazie in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.